In quei giorni Ezechia si ammalò mortalmente. Il profeta Isaia, figlio di Amoz, andò da lui e gli disse: «Così parla il Signore: metti ordine in casa tua, perché morirai e non rimarrai in vita». Ezechia voltò la faccia verso il muro e si mise a pregare il Signore. Disse: «Signore, ricordati che ho camminato al tuo cospetto con fedeltà e con integrità di cuore, ed ho compiuto ciò che è bene al tuo cospetto». Ezechia scoppiò in pianto dirotto. Allora la parola del Signore fu rivolta ad Isaia: «Va ed annuncia ad Ezechia: così parla il Signore, il Dio di Davide, padre tuo. Ho udito la tua preghiera, ho visto le tue lacrime, ed ecco, io aggiungo 15 anni ai tuoi giorni. Libererò dalla mano del re d'Assiria te e questa città, e proteggerò questa città. Questo è per te il segno da parte del Signore, che egli adempirà la promessa fatta. Io faccio retrocedere l'ombra di 10 gradi che è discesa sui gradi di Acaz sotto il sole». E il sole retrocesse 10 gradi di quelli che aveva avanzato. Cantico di Ezechia, re di Giuda, quando guarì dalla malattia. Io pensavo: nel mezzo dei miei giorni me ne andrò. Alle porte dello Sheol sarò trattenuto per il resto dei miei anni. Pensavo: non vedrò più il Signore nella terra dei vivi. Non contemplerò più alcun uomo fra gli abitanti del mondo. La mia dimora è stata rimossa e gettata lontano da me, come la tenda dei pastori. Come un tessitore hai rotolato la mia vita per recidermi dalla trama. Mi hai finito dal giorno alla notte. Ho supplicato fino al mattino. Come un leone, così egli spezza tutte le mie ossa. Dal giorno alla notte mi hai finito. Pigolo come una rondine, gemo come una colomba. I miei occhi rivolti verso l'alto sono stanchi. Signore, sono oppresso, intervieni in mio favore. Che dirò? Di che cosa gli parlerò? È egli che agisce. Io vivo tutti i miei anni nell'amarezza dell'anima mia. Signore, in te spera il mio cuore. Dà conforto al mio spirito, sanami e fammi rivivere. Ecco, la mia amarezza diventa pace. Tu hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione, perché hai gettato dietro le tue spalle tutti i miei peccati. Perché lo Sheol non ti loda, né la morte ti celebra. Non sperano nella tua fedeltà coloro che discendono nella fossa. Il vivente è quello che ti loda, come faccio io oggi. Il Padre farà conoscere ai figli la tua fedeltà. Il Signore ci salva. Per cui canteremo sulle cetre tutti i giorni della nostra vita nel Tempio del Signore. Isaia disse: «Si prenda una quantità di fichi secchi, si faccia un impiastro sulla ferita e guarirà». Ezechia disse: «Qual è il segno che entrerò nel Tempio del Signore?»